La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ho fatto un sogno. Volavo come un gabbiano nero. Per la prima volta mi sentivo il gabbiano più bello di tutti. Onnipotente. Sono stata all'altezza. Ti ho fatta godere. Che sensazione ti ha dato il mio corpo? Sei stata con me solo perché avevi voglia di scopare. O perché mi desideri. E se mi desideri, ti masturbi pensando a me. L'idea di fare l'amore con me ti ha tolto il respiro. Semplice voglia di provare un corpo come il mio. La mia bocca, la mia lingua, sono la bocca e la lingua di una persona disabile. Le mie gambe non si aprono e non si muovono abbastanza. Ti ha dato un fastidio, guardando le scene di sesso in televisione. Mi immagino di essere io. Quanta è la percentuale di movimento accettata per non fare l'amore? E poi, sai che c'è? Ho paura di non provare più la meraviglia di una storia d'amore. Sarebbe la prima volta. Si può avere una prima volta a 39 anni? Buonasera, ben ritrovati alla prima volta. Questo che avete appena sentito è un estratto del film Non è amore, la cui protagonista è Barbara Apuzzo, che è anche l'ospite della puntata di questa sera. Ciao Barbara, benvenuta. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Allora, Non è amore è un film, un documentario per parlare di amore, lo dice il titolo, di sesso e di disabilità, temi che si incrociano nelle vite di tutti i disabili, ma sui quali ancora c'è molto da fare. Esistono tantissimi tabù ancora su questo tema. Barbara, questo in fondo è il progetto che ha intenzione di abbattere questi timori, questi silenzi inutili, questi tabù dannosi, è così? Sì, assolutamente. Innanzitutto faccio una piccola precisazione. Il film si chiama Non è amore in questo. Sì. E sì, abbatte tutti in questi tabù, secondo me anche altri, nel senso che parlare della propria vita intima e privata è difficile per tutti, e forse per una persona disabile lo è ancora di più, o forse no. E io credo che se fossimo un po' tutti più aperti alla confidenza, al racconto di sé, saremmo tutti un po' meno soli in questo mondo. Tu che tipo di disabilità hai? Io ho una disabilità motoria, sì. Che prende quindi solo gli arti inferiori dalla nascita. Ovviamente è una malattia rara, perché ci piace essere più rari che unici. e quindi cos'è che ti ha spinto a rompere, diciamo, questo muro di silenzio? Io so che tu hai una storia anche familiare molto bella, cioè tu sei sempre stata circondata da affetto, probabilmente le confidenze di cui parlavi tu le hai sempre potute avere, condividere con amici, coi fratelli, eccetera. Forse è proprio questo che ti ha spinto, ti ha dato la forza di dire va bene, adesso io rompo questo silenzio e parlo a nome di tutti. Questo sicuramente è stato un grande aiuto. Io, appunto, come tu hai appena detto, mi sono sempre confidata sia con i miei fratelli sia con i miei genitori. Quindi l'affettività per me è stata un elemento sempre molto importante. E dopodiché io, facendo anche teatro, ho cominciato a pormi un po' di domande su questo tema un po' di anni fa, con un monologo sulla mia sessualità, sulla mia disabilità. In tutto avveniva in un letto matrimoniale e mi sono accorta che io potevo dare molto più di quanto pensassi. La risposta durante quello spettacolo, che tipo di risposta è stata? Ci sono state delle cose che tu ricordi con emozione ancora oggi? Guarda, quello che mi emoziona sempre tantissimo è ricordare tutti i baci, tutti gli abbracci che sono stati scambiati ogni volta in 8 minuti di monologo. E in questo mi sono detta, allora forse in un letto tutti abbiamo bisogno dell'altro, tutti abbiamo paura di essere abbandonati, tutti abbiamo paura di non essere amati. E quindi da qui poi in tutta la riflessione, poi anche da ovviamente la riflessione è nata anche dall'incontro con Teresa Sala, che è la regista. Di questo, Barbara, parliamo ancora tra pochissimo, e parliamo anche del film di nuovo Non è amore questo, un film che parla di disabilità, di sesso, un film che sta cercando finanziamenti. Si può partecipare infatti sulla piattaforma www.eppela.com, cercate il progetto Non è amore questo. Ora ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. La prima volta. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Seconda parte della prima volta in compagnia di Barbara Puzzo, per parlare di tante cose, per parlare soprattutto di amore, di sesso, di fisicità, di disabilità. Quella fisicità che arriva diretta anche nell'estratto del film Non è amore questo, che vi facciamo sentire, del quale Barbara è la protagonista, una donna forte, allegra, di grande pensiero, come emerge da quanto state per sentire, una donna disabile che ha deciso di mettersi in gioco in prima persona attraverso un documentario, attraverso un film nel quale si parla di disabilità, ma si parla soprattutto di sesso e di fisicità collegata appunto alla disabilità. Ascoltiamo l'estratto e poi andiamo avanti con l'intervista a Barbara Puzzo. Mi vedi? Mi vedi? Lo chiedo a te, proprio a te. Mi vedi? E se mi vedi, che cosa vedi? Esattamente, cosa vedi? Ti piacciono le mie gambe? E le mie mani? Sono piccole, piccole le mie mani. Sono piccole, ma sono forti. Scommetto che io stringo la tua mano più forte di quanto tu stringi la mia. Guardi me. O stai incontrando le mie cicatrici? Guardami. Dimmi che cosa vedi. però anche io non mi vedo. Ecco, tu in questo ultimo film, che tra l'altro sta iniziando adesso a muovere i primi passi, voi state cercando anche di raccogliere fondi per portare avanti questo progetto, giusto? Sì, esatto. Noi a settembre abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero dei Beni Culturali, però purtroppo non sono abbastanza. Quindi il 26 marzo è partito un crowdfunding che andrà a terminare il 14 di aprile. Stiamo cercando ancora molto sostegno, molta gente anche ci aiuti. L'obiettivo è raggiungere 10.000 euro. E quindi 10.000 euro sono assolutamente fondamentali per fare questo film. Ecco, questo film è un film che parla fondamentalmente, tu dicevi, di relazioni, di amore, ma di sesso, perché questa è la vera questione. Cioè, perché quando si parla di disabilità questo tema qua viene sempre scartato? Perché non fa parte appunto del quotidiano? Cioè, come se una persona con una disabilità non dovesse avere, insomma, delle pulsioni sessuali, dei desideri, dei bisogni e degli innamoramenti, insomma tutto quello che poi tu dici, tra l'altro, nell'estratto del film che abbiamo fatto sentire ai nostri ascoltatori in apertura della trasmissione. Beh, per anche il disabile viene visto come bambino, quindi quasi come angioletto, no? O come persona da assistere, quindi non come persona con dei desideri, con delle pulsioni sessuali proprie. Tant'è che in Italia ultimamente si sta parlando molto di sesso e disabilità, ma come se ne parla? Se ne parla attraverso la figura dell'assistente sessuale. Contro cui non abbiamo nulla in particolare, però io sostengo che considerando il disabile come soggetto da soddisfare sessualmente, allora poi tutti i sentimenti e tutta la parte emotiva va un po' viene un po' abbandonata. Certo. Ma questo percorso che tu hai deciso di intraprendere è anche un percorso tuo personale, no? Cioè, cosa ti sta dando? Cioè, tu ti ricordi la prima volta che hai deciso di metterti in gioco su questo tema? Che paure avevi, ad esempio? Ma il mio primo pensiero è stato: a chi può interessare? A chi può interessare un racconto così intimo, così privato, così personale? Devo dire che piano piano, parlandone con gli amici, sia a livello intimo sia a livello più nel progetto, mi sono resa conto che questa cosa invece stava diventando universale, no? Sì. Ecco, volevo chiederti questa cosa, l'abbiamo accennata poco fa, abbiamo parlato della tua famiglia. Tu hai avuto, abbiamo degli amici in comune, ecco, per questo so queste cose di te. E tutti mi hanno detto: guarda, la famiglia di Barbara è una famiglia straordinaria, questi fratelli incredibili, insomma, una famiglia veramente straordinaria. Ci racconti un po' com'è stata la tua infanzia, la tua vita? Oh. Una domanda molto, molto forte. Guarda, io devo dire che, vabbè, io sono l'ultima di quattro figli, l'unica nata con questi problemi, ma devo dire che all'interno della mia famiglia c'è sempre stata un'unione, un'alleanza, un amore che non mi ha mai fatta sentire, sì, mi ha fatto sentire che c'erano delle difficoltà, anche quello sarebbe stato stupido nasconderne, però io ti posso dire, vabbè, ho un ricordo ancora molto, molto vivo di mia madre che ha lottato con me tutti questi 40 anni, ha lottato per rendermi più autonoma, più indipendente, coraggiosa. E così ha fatto mio padre e gli stessi fratelli. E credo che questo sia, insomma, evidente a tutti, no? Quelli che hanno ascoltato adesso questa intervista, ma anche a tutti quelli che parteciperanno appunto al sostegno di questo progetto, di questo film, che è importante appunto sostenere. Non è amore questo, il film la cui protagonista è Barbara Puzzo, che è stata l'ospite della puntata della prima volta di questa sera. Grazie a tutti, potete riascoltarci in podcast andando sul sito di Radio 24 cercando La prima volta. Buona domenica a tutti da Cristina Carpinelli. Ti ricordi dove?